24 mattino. Eccoci qui, quando sono le 8 e 21 minuti rientriamo in 24 mattino in diretta fino alle 9. Vogliamo parlare un po' di quelli che sono i tagli ai politici, promessi, non promessi, ai costi della politica. Iniziamo questa chiacchierata fino alle 9 e intanto con il presidente dell'Unione delle Province Italiane, Giuseppe Castiglione. Ben ritrovato, presidente. Buongiorno. Buongiorno. Ogni buongiorno. Tanto la richiamiamo perché il bilancino ora è sempre un piacere. Il bilancio, per il momento, quella lineetta che segna il tasso di vita delle province ora segna rosso perché c'è un disegno di legge costituzionale che promette di toglierle tutte. Ma il disegno di legge che gli era approvato il governo non mi pare che pone buone premesse. Noi come Unione delle Province Italiane avevamo offerto al governo un'opportunità assieme ai comuni e alle regioni per ridisegnare i livelli di potere locale, i nuovi assetti, l'alternatività tra le città metropolitane e le province, la gestione associata dei comuni, la semplificazione burocratica, che è quello che interessa veramente ai cittadini, e poi la riduzione dei costi della politica. Mi pare che il governo ieri non solo ha cambiato idea, ricordo a me stesso che 2 mesi fa in Parlamento il governo con il ministro Calderoli aveva assicurato che si sarebbe fatto carico di una riorganizzazione dei sistemi di governo locale complessiva, quindi però, convocando tutti, e mi pare quello di ieri invece è una mossa improvvida. L'obiettivo, perché non riduce certamente i costi della politica. Ma certo, però presidente, le 110 province oggi italiane con forme associative di comune, non penso di dire cose nuove, affidando alle regioni la possibilità di sul territorio di riorganizzare i sistemi, le forme associative per gestire oggi i servizi che offrono le province. Mi pare che da questo punto di vista sarò facile profeta a pensare che i costi della politica, i costi dei servizi sicuramente aumenteranno. Ma infatti, presidente, guardi che i giornali oggi, per esempio Libero, titola così: la truffa delle province, cioè il Consiglio dei Ministri le toglie ma al loro posto ci saranno le aree vaste, i super comuni, cioè praticamente tolgono il nome ma nascerà un qualcosa che sarà come le province. Quello che noi sosteniamo oggi tra il livello comunale e la regione è assolutamente in dubbio che è necessario un governo, un ente intermedio. Mi pare che la più funzionale struttura istituzionale prevista nella Costituzione, quella delle province, noi abbiamo detto oggi laddove costituiremo le città metropolitane saranno alternativa alle province, proviamo a ragionare di gestione associata dei comuni, più di 6.000 comuni sotto i 5.000 abitanti e soprattutto un ente di governo intermedio che possa avere anche quelle funzioni che oggi svolgono una miriade, una pletora che sono i veri costi della politica. Ma ci hanno provato ad accorpare i comuni, dicono spariscono i comuni da sotto i 1.000 abitanti, hanno fatto la rivolta e sono rimasti. Accorpiamo i comuni. I comuni che rappresentano l'identità, cioè, pensiamo, diciamolo in maniera molto franca, i sindaci dei piccoli comuni non sono il vero costo della politica, sono i volontari della politica di cui la politica ha bisogno, sono coloro che si mettono al servizio di quelle comunità. Noi dobbiamo parlare di gestione associata delle funzioni dei servizi, comuni, dei servizi. Sì, però così non si taglia niente, cioè capisce? Cioè, i comuni piccoli no, i comuni medi no, le province no. Noi siamo i primi che sono interessati ad un vero riordino, da un lato del riordino istituzionale. Oggi si parte nella manovra economica, non c'entra nulla l'assetto istituzionale, quindi noi vogliamo da un lato riformare l'assetto istituzionale, diciamo un livello di governo intermedio deve essere assolutamente necessario, pensare che tutto possa essere ulteriormente delegato alle regioni, immaginiamo il solo costo del personale, oggi mediamente il costo del contratto collettivo delle regioni rispetto agli enti locali è almeno il 25% in più, avremmo 600 milioni di euro in più di costo del personale. Sì. Allora, siccome noi vogliamo riorganizzare, da un lato facciamo un tavolo comune, province e regioni con il governo nazionale e riorganizziamo in maniera funzionale l'assetto della nostra istituzione, sparire no, ma riorganizziamo. Dall'altro lato parliamo perché il governo, cioè ancora non riusciamo a comprendere il perché il governo, abbiamo fatto uno studio, abbiamo prodotto un dossier, enti, consorzi, società partecipate, enti di e che poi hanno fatto e poi sono andati avanti così, che costano circa 7 miliardi di euro. Però, che Presidente, sono, che non sono sotto il controllo dei cittadini. In conclusione, chi viene eletto alla provincia o al comune ha un vaglio dei cittadini. Ah, ma certo che viene votato. Però in conclusione mi dica questo: lei mi conferma quello che c'è sui giornali, che se fosse approvato sto disegno di legge costituzionale spariscono le attuali province ma rinascono sotto forma di un altro nome le province regionali, cioè... Ma infatti la situazione paradossale sarebbe assolutamente questa, perché da 110 province a mio avviso nasceranno non meno di 200-250 forme associate. Oh, molto bene, allora, quello che gli italiani vogliono, no? Da 110 allora, province 250. Ieri il Consiglio dei Ministri era tutto preoccupato di dire, comunque lanciare un messaggio, comunque lo si vuole, comunque dire abbiamo abolito le province. Il messaggio che doveva essere all'opinione pubblica, io sono convinto, bisogna dare un messaggio ai ministri, al Parlamento, a tutti, che la gente oggi ha sufficiente maturità per poter comprendere laddove si risparmia, laddove si fa buona amministrazione, laddove si fa semplificazione amministrativa, laddove non si accavallano le funzioni, le procedure amministrative vengono semplificate. I cittadini oggi hanno sufficiente esperienza per dire questo, e soprattutto i cittadini oggi comprendono che vogliono avere diretta contezza dei loro amministratori. Sì, è in provincia questo, vogliono sapere cosa fanno. Beh, insomma, io, intanto la mia provincia, ho ridotto il numero degli assessori, facciamo l'estate, immaginate 130.000 chilometri di strade provinciali affidate alle regioni, sì, oppure sì, ai piccoli comuni. No, ma intanto lei ci ha detto che verranno, nel caso, da 110 attuale 250, perché sono macro, non so, mini province o aree che si accorpano. Staremo a vedere. Intanto, Presidente, la ringrazio come sempre per la disponibilità. Il Presidente della provincia di Catania, Giuseppe Castiglione, nonché Presidente dell'Unione delle Province Italiane. Ma noi, dopo la pubblicità, vogliamo mantenere questo filone, perché oggi Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo sul Corriere si chiedono: ma questi tagli promessi, il taglio, il dimezzamento dei parlamentari, i piccoli comuni che dicevano li fondiamo e li eliminiamo, i tagli agli stipendi dei parlamentari che all'ultimo momento sono saltati o sono stati decurtati, tagliati i tagli, ma insomma guardate che sta rinascendo, semmai si era sopita un attimo, una rivolta contro la cosiddetta casta dei politici. Di questo vogliamo parlare con degli ospiti tra poco. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. Ma allora, ce l'avete con questi politici? È davvero la casta italiana per eccellenza? Tra poco. 24 mattino. Allora, le 8:34 minuti, che dire, è davvero la casta delle caste quella dei politici? 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. Tra l'altro Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo, che sono usciti col nuovo Licenziare i padri eterni, l'Italia tradita dalla casta, oggi fanno due pagine sul Corriere, a pagina 2 e 3, a dire ecco la beffa dei tagli alla politica, le indennità, i vitalizi d'oro, il dimezzamento dei parlamentari, tutto sparito in questa manovra all'ultimo. È davvero così? Ne parliamo con il sottosegretario all'ambiente Francesco Nucara dei Repubblicani. Buongiorno e ben ritrovato, Nucara. No, non sono più sottosegretario all'ambiente. Ma come mai? 2008. E come mai non è 2006, più e come mai non è più sottosegretario? Io l'ho fatta, l'ho promossa sottosegretario. 2006, poi ha vinto l'elezione Prodi. È certo. Grazie per essere con noi comunque, Nucara, eccoci qua. Allora, saluto anche il senatore Gilberto Pichetto Fratin. Buongiorno, buongiorno senatore. Buongiorno. Tra l'altro, diciamolo subito, lei è l'autore di quell'emendamento che ha tolto i tagli all'ultimo momento, i tagli alla Presidenza della Repubblica, alla Corte Costituzionale. Sì. Infatti Castelli, il leghista, ha detto la casta dei boiardi di Stato. Eccola qui salvata. Ma tra poco ci spiegherà tutto. Saluto anche Mario Aiello del Messaggero. Ben ritrovato, Mario. Buongiorno. Eccoci buongiorno. Qua. Io vorrei far sentire a tutti che cosa? Un Maurizio Paniz, onorevole Paniz, del Popolo della Libertà, che ieri alla Zanzara, ieri ero qua anche a fare la Zanzara, che Cruciani stava a Venezia. Sentite Mario, guarda che un bel punto di partenza, l'onorevole Paniz che dice del suo stipendio da parlamentare. io dalla mia attività di parlamentare, con i tagli ultimi che sono stati disposti, sì, se va bene riesco a prendere 300 euro. Sta dicendo che alla fine del mese lei con questi tagli arriva da parlamentare ad avere 300 euro, ma non ci credo. No, io le dico di più. Che per la mia attività euro, di parlamentare, in tasca a me non resta assolutamente nulla, perché io vado moltissimo sul territorio, ci vado con la mia macchina, pagando la mia benzina, affrontando le spese che sono necessarie. Ma però questa delle, delle 300 euro me le deve spiegare, come fai? Ma se leggiamo 11.000 euro il parlamentare? Legge in maniera molto sbagliato e glielo spiego in maniera matematica. La retribuzione con l'ultimo taglio di luglio è di 4.500 euro. Per chi esercita una attività extra, cioè anche un altro stipendio, viene ridotta del 40%. Vuol dire che andiamo intorno ai 2.700-2.800 euro. Poi ci sono il 20% dell'emolumento originario come contributo di solidarietà. Quindi va a 2.000. Sono 900 euro. Quindi 1.800. 2.800 meno 900 euro andiamo a 1.900 euro. 1.800. Sono le imposte pari al 50% circa, scendiamo circa 900, io do al partito 800 euro come tutti i parlamentari del PDL, ogni 100 mese. Euro. E questo è quello che rimane. Ci perde a fare il parlamentare economicamente? Ci perdo a fare il parlamentare, però lo faccio perché sono un cittadino orgoglioso. Aiello, eccoci qua, ci perde Paniz. No, no, ma è tutto vero, io non ci credevo, ma insomma avete snocciolato le cifre. Però tutti questi discorsi guardano soltanto le 5.000 euro. No, ma lui dice, attenzione, la diaria è un rimborso, e quindi è un rimborso a fronte di spese. E quindi poi ci sono i soldi per i collaboratori che vengono pagati in genere, non parlo di Paniz in particolare, ma di molti suoi colleghi, vengono pagati in nero, non vengono pagati proprio. E quindi se li tengono. Oppure vengono utilizzati parenti, figli, cognate. Però il principio, cioè dire che messaggio è quello di dire adesso, in questo momento, io ci perdo a fare il parlamentare, mi rimangono 300 euro, insomma c'è stata una rivolta ieri di ascoltatori. Appunto, è un messaggio di un autolesionismo, folle, perché quelle sono delle forme di indennità molto complesse e molto articolate, e Paniz l'ha fatta un po' troppo semplice. Io capisco che, lo ha detto anche ieri Napolitano, che bisogna così andarci piano, con espressioni fulminanti, come l'ha definito il Presidente, come casta, perché poi tra antipolitica, populismo, insomma, chissà dove si va a finire. Però anche i più ben disposti tipo me, alla luce di questa manovra, si arrendono, perché non è rimasto niente dei tagli promessi. Non è rimasto niente. E l'ultimissima, ieri il Consiglio dei Ministri doveva occuparsi, oltre che dell'abolizione delle province, che non ci sarà, ma di cui si sono occupati, sì, del dimezzamento dei parlamentari, del numero dei parlamentari. Non c'è niente. 12 ore prima è stato dato l'annuncio che il Consiglio dei Ministri se ne sarebbe occupato, facendo partire un complicatissimo iter di modifica della Costituzione. All'ultimo momento ieri nulla, niente, è sparito anche quello. E insomma, veramente, io ho sempre dato fastidio il populismo anticasta, però adesso la manovra sentiamo, abbatte anche più ottimisti. Onorevole Nucara, ma è vero che lei, confidando ieri alla stampa, ha detto che in un'occasione addirittura in un ospedale si è vergognato, o si stava per vergognare, di dire faccio il parlamentare? No, vergognare no, non mi vergogno affatto di quello che faccio. Dico che c'è un problema, c'è tra virgolette, un'aggressione da parte di un certo tipo di opinione pubblica sui parlamentari. Questo è dovuto a tutto quello che si legge sulla stampa, e quindi è un mantenuto, cioè questa infermiera mi dice, lei sta seduto lì e non fa niente e prende quattro volte quello che prendo io, che invece la devo pulire. Cioè, questa è l'infermiera in ospedale. Questo non è che era di per sé sbagliato, ma un po' io, così un po' ridendo, un po' provocando, dico, faremo 60 milioni di parlamentari così prenderemo tutti lo stesso stipendio. Mi dispiace che io ho sentito male per la verità il dottor Aiello, ma ho sentito quello che ha detto lei di Panis. Panis è un mio amico, tra l'altro ha origine repubblicane, come me, che io sono rimasto repubblicano tutta la vita. Però non può dire che il deputato muore di fame. No, ma questo non l'ha detto, però il senso era quello. Cioè, dice guadagno 300 euro, muore di fame. Non mi rimane nulla. Sì, certo. Certamente lui fa l'avvocato e lo stipendio di deputato, anche se fosse quello reale, anche se fossero 20.000 euro, per lui sarebbe una goccia d'acqua in mezzo al mare del suo reddito complessivo. Bene, non si può dire così, perché il rischio è, io ritorno ai costituenti, che poi io sono alla fine della mia vita politica, speriamo non della mia vita umana, e il rischio è effettivamente che si crea un modo per cui tutti quelli che hanno i soldi vanno a fare il deputato, cioè la casta non sono i deputati, non sono i parlamentari, non sono i politici, è un modo di vivere il mondo. Sentivo prima male per la verità, quindi chiedo scusa se ho interpretato male il pensiero del dottor Aiello. C'è il problema dei portaborse. Sì, molti pagati in nero, molti pagati in nero. Molti pagati in nero, molti non pagati, molti parlamentari si tengono i soldi che si fanno aiutare dalla figlia, dal cugino o da nessuno o da un giovane che vuole intraprendere la carriera politica e viene mal pagato. Io personalmente do i soldi al partito che mi assiste nelle vicende. Vabbè, però questo è un problema che c'è. Segretario del Partito Repubblicano. Facciamo così però, onorevole Nucala. Chi propone? Fini e Schifani, quello che fa il Parlamento Europeo. Tu hai 3.500 euro per il portaborse. Dacci i nomi che li paghiamo noi. Anche perché insomma nel tempio della legalità, il Parlamento, dove si fanno le leggi e far lavorare le persone in nero, effettivamente. Perché in quel modo tutti daremmo i nomi, sarebbero 2-3 mila ragazzi che potrebbero lavorare. Allora, senatore Pichetto Fratin, ci spieghi questo emendamento, perché abbiamo letto era previsto un taglio dei costi per Repubblica, per Presidenza della Repubblica e Corte Costituzionale, un suo emendamento all'ultimo, il suo emendamento ha bloccato questi tagli, perché? No, in realtà era previsto il taglio per tutti gli organi costituzionali, sì. Fatta eccezione Parlamento, ministri e così via, ma all'ultimo momento ho presentato questo emendamento che è stato votato all'unanimità, sì. Perché io credo e sono convinto che il rispetto dovuto al Presidente della Repubblica, quale più alta carica dello Stato, deve anche significare il non porre vincoli da parte del Parlamento, sarà lui a valutare. Il Presidente della Repubblica italiana ha dichiarato 2 o 3 mesi fa di rinunciare a tutto ciò che gli spettava di incremento e di fino al 2014. Cioè, è una forma di rispetto, dice, no, rispetto, Napolitano è in grado di sapere se si deve tagliare qualcosa. In questo Stato, e se crediamo quindi nella figura più alta di questo Stato, che è la Presidente della Repubblica, dobbiamo avere anche dargli questa fiducia. Forma di rispetto. E la Corte Costituzionale? Vale per la Corte Costituzionale, che è il garante della Costituzione, perché altrimenti diventa tutto un contratto. Cioè dice, se ci dobbiamo fidare di istituzioni così importanti, così allora non togliamogli i soldi, loro saranno in grado di valutare da solo. Come hanno fatto altri presidenti nel mondo, ma come devo dire il Presidente della Repubblica Italiana ha già dichiarato taglierò. Ma insomma, ma perché c'è questo? Dobbiamo dare nel senso, l'ha letta anche lei la casta, nel senso il libro, no? Delle spese del Quirinale che rispetto alla corona inglese, per esempio, costa una serie di esagerazioni, certamente, una serie di correzioni che sono da fare e che bisogna farle anche drasticamente. Io devo dire sono d'accordo con Nucala, i collaboratori ce li paghi direttamente il servizio, perché devo anche dire che in Senato bisogna certificarle, altrimenti non entrano, quindi poi non so se qualcuno ha certificato falso. Quindi lei insomma l'ha fatto come gesto di fiducia, cioè sono le istituzioni, la Corte Costituzionale. Perché a questo punto se non c'è più nessuna fiducia nei confronti a parte dalla Presidenza della Repubblica, che sono gli organi garanti. Però io non è che se taglio il 10% i costi della Presidenza della Repubblica vuol dire che non ho fiducia nel ruolo istituzionale di Napolitano. Assolutamente, non è però che non devo farglielo io. Se lo deve fare lui. Cioè se lo deve fare lui. Se lo deve fare lui. Dall'alto può farselo. È interessante, da qui ripartiamo dopo il traffico. E allora, se lo devono decidere loro, ci dice il senatore Pichetto Fratin, in nome della fiducia nei confronti della Presidenza della Repubblica e della Corte Costituzionale, gli eventuali tagli, io vorrei all'800240024 sentire un paio di ascoltatori. Margherita da Milano, buongiorno. Ah, buongiorno. Dica Margherita. Buongiorno, io volevo proprio chiedere come mai lo stipendio di Napolitano non viene mai dimensato, visto che aveva detto che quest'anno poverino non voleva l'aumento. Come mai non si parla mai di quanto prende questo presidente e tutti gli altri che l'hanno preceduto? Stiamo parlando... Basta, anche se ti tagliano il 20%, di fame non muoiono queste persone. Io non ho più fiducia di niente, di nessuno, di nessun partito. Sono proprio stanca che i sacrifici li devono fare gli altri e non questi signori che si tolgono poverini il 5% e uno con 1.000 euro al mese deve portare, pagare l'affitto e mantenere i figli. Grazie, vergogna, Margherita. Vergogna, vergogna. Grazie Margherita, andiamo a Roma da Ivan. Ivan. Sì, buongiorno, buongiorno. Io volevo intervenire sulla problematica che ormai è sempre più attuale dei tagli alla casta, sì, e dei mancati tagli alla casta, semplicemente per dire che questa problematica non è una problematica seria e concreta, è solo una problematica di carattere ideologico dal punto di vista dei cittadini che giustamente aspettano un segnale, sì, positivo da parte della, diciamo, della dirigenza politica, ma anche demagogico da parte di alcune fazioni politiche che strumentalizzano questa problematica. Quindi è demagogia andare a dire la casta. Da un punto di vista prettamente economico, il costo della politica, se consideriamo gli stipendi, se consideriamo i benefit, rappresenta una percentuale minima che non supera mediamente il 5% delle spese nazionali. Insomma, allora, se i tagli alla casta sono diciamo solo uno strumento per attaccare il governo e la maggioranza, oggi questa, domani... Sì, sì, la classe politica, lei dice, c'è demagogia. Va bene, la ringrazio Ivan. Vorrei da Mario Aiello, che ne pensi? Insomma, l'approccio del senatore Pichetto Fratin è questo. Il taglio del 10% c'è a tutte le istituzioni, fatta eccezione per un mio emendamento per Presidenza della Repubblica e Corte Costituzionale. Insomma, vogliamo avere fiducia nei massimi organi rappresentativi e della giustizia e dello Stato italiano, per cui si fanno tutto loro se vogliono? Aiello, questo è... Io sono abbastanza d'accordo con il senatore, perché innanzitutto perché in questa specie di corsa abbastanza ridicola tra le varie istituzioni, a chi taglia di più, taglio più io, no più io, ma ho cominciato prima io, no ho cominciato prima io, e poi non taglia nessuno, è l'unica istituzione che ha veramente tagliato qualche cosa è stata proprio la Presidenza della Repubblica. Quindi mi trovo abbastanza d'accordo con lui. Mi trovo meno d'accordo con l'ultimo ascoltatore che dice che è demagogia. No, ma non su questo, perché su questo è vero, ci sta anche una buona dose di demagogia. No, sul fatto che gli sprechi della casta pesano pochissimo, diciamo, sul bilancio economico della nazione. Questo può essere vero a livello centrale, ma a livello periferico gli sprechi del ceto politico e delle istituzioni, degli enti locali, delle varie burocrazie periferiche, è una cosa, è lì il vero terreno, così, non dico di malversazione, ma di... Ma anche di sprechi, di persone che vivono di politica, certo. Proprio, cioè, prendiamo l'ultimo caso, proprio quello delle province che non verranno abolite, ovviamente. No? Cioè, si dice, vabbè, quando verranno abolite le attuali province, sono 108, nasceranno 200-250 aggregazioni tra comuni. E Calderoli le ha chiamate le province regionali. Ma questo che cosa significa? Un po' una presa in giro. No, un ulteriore aumento della spesa. Ma infatti, prima avevamo il presidente dell'Unione delle Province Italiane, ci ha detto proprio questo. Io però, onorevole Nucara, il grido di dolore di Margherita che urla vergogna, lei lo coglie come un qualcosa di giusto oppure c'è un po' questo fortino dei politici rinchiusi lì? Il problema è più complesso. Io sentivo parlare poco fa in una trasmissione televisiva abbastanza nota l'onorevole Calearo. Sì. Secondo l'onorevole Calearo dovrebbero fare i parlamentari quelli che hanno un lavoro come il suo, che magari ha un'azienda che non ha avuto provvidenze dello Stato, e secondo l'onorevole Calearo tutti quelli che stanno a sinistra sono quelli che non lavorano e quindi vivono di politica. Io personalmente, come mi hanno insegnato fin dalla giovane età, che prima per essere liberi bisogna trovare un lavoro e lavorare, certamente c'è gente che vive con 1.000 euro e c'è gente che vive anche con meno di 1.000 euro. Quando io dico che Panis non si deve lamentare perché lo stipendio del deputato è adeguato, anche se onestamente è più basso del tempo. Ma io voglio dire a Margherita e ai giornalisti, perché non parlate del doppio contributo elettorale che prendono tutti i partiti? Cioè il PDL, dove io sono stato eletto, prende il contributo elettorale in base ai voti dei votanti, degli elettori. Dal 2008 al 2013. Ho capito, ma guardi che ne parliamo, denunciamo questa cosa. Ma chi deve cambiare questa legge? Ha preso pure il contributo del 2006, lo prendono tutti i partiti. Ho capito, ma chi... Scusi, no... giornale di questa ma scusi, ma guardi non che ne parlano. Sui giornali. Ma onorevole Nucara, ma chi deve cambiare questa legge? Voi? Cioè, nel senso noi possiamo... Ma infatti, perché gli stipendi, guardi, che la pressione che c'è dell'opinione pubblica è tale che di fatto poi già l'anno scorso, almeno parlo dei deputati, non so del Senato, sono stati ridotti. Sono state ridotte le indennità. Cioè dice ve la prendete con lo stipendio delle singole persone mentre ci sono scandali, per esempio questo sì è vero, del doppio rimborso, cade la legislatura ma si pagano 5 anni di rimborsi elettorali. Il dottor Aiello sul suo giornale, se lo può fare, non parla dell'esenzione dell'ICI alla Chiesa? Cioè perché la Chiesa per attività commerciale, non per attività se ne è parlato, non deve pagare l'IRES, la paga al 50%, perché? Ma se ne è parlato, ne abbiamo parlato anche in questa trasmissione, io però vorrei capire, Nucara e Pichetto Fratin, io ho una missione da 2 giorni, pare che ci siano, ma non so se è leggenda, dei parlamentari che dicono, almeno 2, che dicono ai propri figli a scuola non dite per carità che il papà fa il lavoro di parlamentare. Pichetto Fratin, le sembra una cosa seria o è una leggenda che ha sentito anche lei? Io spero sia una leggenda, devo dire che io sono orgoglioso di essere un parlamentare della Repubblica, ci credo, forse sarà perché la mia passione ha radici lontane da quando avevo 16 anni e ho fatto tutta la scala partendo da figlio di operai e considero il Parlamento il luogo massimo di rappresentanza. Quindi nessuna vergogna, ma com'è giusto non si deve vergognare? Così come mi permetta, non considero né esagerato né basso quello che attualmente è l'indennità che prende il parlamentare. Cioè è giusta. Però anche lei dice Paniz forse è esagerato, non lo so, forse... Sì, io adesso ho sentito che mi diceva 300 euro al mese. Devo dire, per me, rispetto a quella che mi dignità, alla fine rimangono 4-5.000 euro al mese che ritengo solo il minimo dignitoso per chi... Beh, 4-5.000 euro al mese sono tanti, però... Rimangono i 4-5.000 euro al mese. Beh, che è uno stipendio sontuoso. Perché un preside di scuola quanto prende? 3-4.000 euro al mese? Beh, sì, adesso non lo so. Io adesso non so qual è la sua remunerazione media annua, ma penso che più di 50.000 euro se li porti a casa. Quindi io ritengo che... Poi la valutazione sulla qualità della rappresentanza è giusto che la facciano i cittadini, ma se è uno specchio della società probabilmente ci saranno anche... dei farabutti. Va bene, io intanto qui mi devo fermare e ringraziare tutti i miei ospiti, e così come Alessandro Longoni e Elisabetta Fusconi in redazione, grazie davvero. Insomma, su 24 Mattino Facebook ci trovate, continua lì la discussione. Grazie anche al nostro alpino Peter Bescapè. Certo, è venerdì e quindi va per i monti. Salutaci Monti, Peter, e ci sentiamo lunedì alle 7:20. Che a noi serve la bandiera, su quei monti a guerreggiare, oh la la.